Ciao, ciao. Ciao. Un saluto a tutte e a tutti. Ciao a tutti e a tutti. E niente, siamo qui, siamo Peppe e Serena e siamo, diciamo, su Radio Onda Rossa, come potete ascoltare. Con lei continua a trasmettere, noi siamo a casa come molti di voi e abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla radio. Il nostro piccolo contributo in questo momento di isolamento un po' forzato. E non avendo un cazzo da fare, abbiamo deciso di fare una lezione di educazione civica. Speriamo che sia una di un ciclo di lezioni, anche di materie diverse, che Radio Onda Rossa proporrà in questo periodo in cui siete costretti a stare a casa, insomma. Quindi stiamo a casa, diamoci una mano. Magari non ce la diamo una mano, ma stiamo a casa e niente, facciamo questa lezione. Ah, abbiamo, certo, non possiamo dimenticare gli ospiti illustrissimi che avremo, uno in diretta addirittura. Vediamo se ce l'abbiamo in collegamento. Sì, pronto? Buonasera, sì, mi sento. Oh, carissimo. Buonasera, grazie mille, professoressa. Ancora. Ancora cosa che non... Lei è giurista, dico, giurista... Giurista di fama, sì, esatto. Di fame. Di fame pure, tanta, di sordi. Costretto come voi a stare a casa, ho deciso anch'io di dare il mio contributo. Noi la ringraziamo. Radio, va bene? La ringraziamo. Sono per questo. Qui a buffo, come al solito, chiamatemi se avete bisogno... Bene, quindi... E ne avremo bisogno perché qualcuno dovrà leggere gli articoli della Costituzione e a questo punto direi che lo potrà fare l'avvocato Migrazzi, no? Che... L'avvocato Migrazzi secondo me lo fa a memoria, non legge. Certo, reciterò per voi a memoria gli articoli della nostra Costituzione. Bene, allora possiamo iniziare la nostra prima lezione di educazione civica. Educazione civica, lesson number 1. Eccoci, allora, benvenuti alla nostra prima lezione. Il nostro testo di riferimento chiaramente è la nostra Carta Costituzionale, che è la nostra legge fondamentale, cioè essa racchiude tutte quelle norme, quei principi e quei valori che sono posti a nostra tutela, a nostra garanzia, principi e valori ai quali si devono ispirare anche le leggi che lo Stato emana nell'ordinamento. Come siamo arrivati alla Carta Costituzionale? Dunque, la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia usciva dal ventennio fascista, quindi da quel periodo in cui sono stati aggrediti e sopraffatti i diritti, le libertà, la dignità dell'essere umano, e il 2 giugno del 1946 tutti i cittadini, tutte le donne, tutti gli uomini sono stati chiamati ad esprimere, a scegliere quale forma di Stato dare a questo paese e quindi scegliere tra la Repubblica e la Monarchia. Vince la Repubblica con un'affluenza alle urne molto molto elevata, ma ai cittadini si chiedeva di fare anche un'altra cosa, eleggere un organo, l'Assemblea Costituente, che avrebbe dovuto elaborare e redigere il testo della Carta Costituzionale. Sì, la Costituente, che in realtà da chi era composta la Costituente se non dal Comitato di Liberazione Nazionale, cioè dalle forze, diciamo così, di opposizione che fecero la resistenza a quel regime infame e che quindi, diciamo, uscirono vincitrici, poniamo così, dalla fine del regime. Ora, questo che vuol dire? Vuol dire che purtroppo non c'erano intenti comuni, le idee erano diverse su molti punti. Erano molto molto distanti tra di loro. Liberal-democratici, cattolici, socialisti, comunisti, anarchici e tanti altri che avevano combattuto il fascismo, diciamo, si scontravano tra di loro per tentare di raggiungere un fine comune, un accordo, una carta che valesse circa 2 anni, no? Per arrivare a... Sì, che poi, pensando ai tempi odierni, è anche poco, se vogliamo, visto che è uscito fuori la Carta Fondamentale dei Diritti. Quindi alla fine del 1947, il 27 dicembre, viene firmato il testo da Enrico De Nicola, l'allora capo provvisorio dello Stato, e la Costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 1948. Si compone di appunto principi fondamentali dall'articolo 1 all'articolo 12, oggetto poi di questa prima lezione di educazione civica, i diritti e i doveri dall'articolo 13 all'articolo 54 e poi dal 55 al 139 a livello più specifico e più tecnico si occupa del funzionamento vero e proprio dello Stato, quindi il funzionamento degli organi, le procedure di approvazione dell'iter legislativo. Sì, sì, sì, poi ne parlavamo in realtà preparando questa lezione, no, su questo fatto che i verbi utilizzati sono per lo più propositivi, nel senso non è una vero. Non è, la Carta Costituzionale non ci impone dei divieti, non ci vieta di fare qualcosa, ma ci permette di farlo, ed è sostanzialmente quello che molta gente non riesce a capire, no? Tra il vietare a tutti qualcosa a permettere invece qualcosa a qualcuno. E adesso direi che possiamo mandare un contributo, no? Che è una palla, dici che è una palla? No, no, dico che è una palla, non lo so. Come... Mi grazi, è una palla? Ma io non lo so, cioè nel senso, no, penso di no, vabbè io queste cose le conosco, ecco, però vabbè, lei... cioè, esatto, però io penso, va bene, ci mettiamo giusto, a disposizione, penso che sia giusto comunque, sì, parlarne ancora. Va bene, mandiamo il contributo e ci sentiamo fra un po'. Di Biagio. Buongiorno. Buongiorno. Triennale o quinquennale? Quinquennale. Dunque, parliamo della prescrizione? Sì, possiamo vedere che vi è prescrizione quando vi è un diritto che per mancanza di tempo del proprietario, ovvero per scorrimento del tempo stesso, rende tale diritto terminato. Sì. Allora, proviamo a dirlo un po' meglio. Innanzitutto, che cosa riguarda la prescrizione? Un diritto. Sì, e come deve essere questo diritto? Un diritto giusto. No, aspetti, che cos'è un diritto giusto? Allora, mi ridia la definizione. Oh, possiamo vedere che vi è prescrizione quando vi è un diritto che per scorrimento del tempo, ovvero per mancanza di tempo del proprietario, ovvero per pigrizia del proprietario, lo scorrimento del tempo stesso rende tale diritto terminato. No, guardi, sta facendo un po' di confusione. La confusione la fa tua sorella quando vede troppi chiazzi. Che cosa ha detto? Che tua sorella fa i boffolotti. Ma come si permette? Te senti matto, te senti coatto, te senti quello che sai, cose che sai la prescrizione. No, io non sto facendo il coatto per niente. Le ho fatto una domanda che è in programma. Si sta far matto dalla prescrizione. Ma il libro l'ha scritto il professore. Che le sembra un coatto il professore? Le sembra un matto? Andiamo a discutere poi della prescrizione. Dai, andiamo a discutere poi. Andiamo a discutere poi della prescrizione. Ma meglio della prescrizione 12 volte. Ma che davvero? Ma vuoi finire l'università? Stai buono. Senta, non lo sta a sentire a questo cancoglione, sta imbriato. Metti in voto qualsiasi e se ne andiamo a fare. Ma non posso! Metti in voto qualsiasi e fammela finita. Va bene. Eccoci, allora, di nuovo. Eccoci. Possiamo proseguire con la nostra lezione. Allora, com'è fatta la nostra Costituzione? La nostra Costituzione è scritta, è votata, è rigida ed è lunga. Scritta, diciamo... sostanzialmente è il documento materiale redatto, però in una forma solenne, da un organismo deputato a farlo. Scritta, cioè, bisogna spiegare che non ci sono le figure, nel senso che... No, non ci sono le figure, ci sono gli articoli... Che si può leggere, non è come i graffiti rupestri con le scene di caccia. No, cioè, no, bisogna, no. Bisogna leggere, proprio leggerla dei caratteri, non è difficile però, eh. No, anzi è molto bella da leggere. Poi è rigida. Rigida è un aspetto molto interessante della nostra Costituzione, nel senso che il suo testo non può essere modificato se non attraverso una procedura aggravata, una procedura più complessa e più complicata rispetto all'iter di approvazione delle leggi ordinarie dello Stato. Sì, prevedendo anche, insomma, maggioranze più ampie e più difficili da ottenere, quindi, e questo ci rende più sicuri da, diciamo, il primo scemo che si sveglia la mattina e chiede i pieni poteri, no? Quindi sono misure di tutela e di difesa. Che ci fanno stare più tranquilli, via, mettiamola così. Inoltre è lunga, nel senso che accanto alle libertà civili, i diritti politici ed economici sono riconosciuti e sono tutelati anche valori e principi, come dicevamo prima, a cui si deve ispirare l'azione dei poteri pubblici. Sì, rendendo di fatto quasi impossibile il ritorno di un regime simile a quello che appunto aveva fatto nascere la Costituzione stessa. Bene, adesso possiamo, secondo me, con l'aiuto dell'esimio giurista Migrazzi, vedere da vicino e quindi leggere l'articolo 1 della Costituzione. Sì, allora, articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ecco, qui in questo articolo emerge un principio ispiratore proprio della Costituzione, quindi il lavoro come uno strumento di realizzazione della persona, ma anche come uno strumento di crescita collettiva, di crescita comune. Certo, anche di crescita culturale, di crescita di coscienza politica e quindi di lotta di classe. E in realtà è il primo articolo, ovviamente, quindi sostanzialmente quello che già dice un po' tutto. E dice anche, parla anche di un altro principio, che è il principio democratico, quindi la sovranità appartiene al popolo, quindi non c'è il potere assoluto, il pensiero unico, i sottoposti, ma il popolo esercita questa sovranità eleggendo i propri rappresentanti all'interno di una democrazia rappresentativa. Esatto, cioè, scusami, parlando, scusami se ti interrompo. Dimmi. Dicevo, nelle forme e nei limiti della Costituzione. Esattamente, importante è quello che c'è dopo la virgola, se no si dà ragione ai sovranisti che conosciamo purtroppo bene e che si sono appropriati di questa parola storpiandola, perché in realtà intendono nazionalismo del secolo scorso. Allora possiamo passare all'articolo 2, esimio? Sì, allora articolo 2, recito a memoria: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ecco, qui all'articolo 2 emerge come nella Costituzione l'uomo sia al centro, nel senso la dignità dell'essere umano, dell'essere umano in quanto tale, con tutte le sue caratteristiche, sia come individuo che nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, quindi ove lui esprime se stesso. E quindi la Costituzione estende questi diritti fondamentali anche alle formazioni sociali, ossia la famiglia, i partiti politici, i sindacati, le società, e si parla chiaramente di diritti inviolabili dell'uomo. Assolutamente, oltre che richiedere l'adempimento, d'accordo, della cooperazione sociale, che è secondo me l'aspetto che meno si è capito della Costituzione fino ad oggi. Infatti, accanto ai diritti inviolabili è richiesto anche l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Io, guarda, fino a quella politica e sociale lo posso pure capire, ma io quella economica non lo so, perché poi i soldi sono i miei, non è che... Qui si sta, no? Chiaramente parlando di collaborare, di cooperare alla crescita. Sì, no, vabbè, l'avvocato Migrazzi ovviamente fa orecchio da mercante. Bene, possiamo passare quindi all'articolo 3? Allora, l'articolo 3, se non sbaglio, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ecco, molto, direi, chiara qua, no? La Costituzione. Sì, direi che commentare l'articolo 3 vuol dire non averlo capito, nel senso che si legge e si capisce da solo, insomma, non... L'articolo 3 parla del principio di uguaglianza e parla di una uguaglianza in senso formale e in senso sostanziale. In senso formale, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, quindi dignità sociale, e sono uguali davanti alla legge, e non ci sono, anzi, c'è il divieto di discriminazione per ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Dal punto di vista sostanziale, la Costituzione parla di rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale affinché tutti i cittadini posti in un piano di parità possano poi, no, concretizzare, rendere effettivi i propri diritti. Ora direi che per stemperare un po' no? l'aria pesante, no? di questa lezione. Mamma mia. Di questa polverosa lezione. Sì, abbastanza, nel senso che Dupalle qui pure. Dicemi, grazie. Lo so, mi grazie, ce la mettiamo tutta. Vabbè, insomma, comunque adesso alleggeriamo un po' e mandiamo un brano musicale. Eccoci di nuovo e possiamo passare, mi grazie, all'articolo 4. Ah, così, va bene. Mi avete chiamato solo per... Va bene, allora, l'articolo 4 è la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Allora, anche qui, come dicevamo prima in relazione all'articolo 1, il lavoro è uno strumento di realizzazione dell'essere umano e della, appunto, dignità dell'essere umano. Qui c'è anche un altro aspetto: la Repubblica promuove quelle condizioni affinché venga garantito il diritto al lavoro, quindi la Costituzione parla di azioni concrete, di creiamo le condizioni per, e c'è sempre quindi sia l'ottica del singolo e l'ottica, diciamo, collettiva nel contribuire alla crescita comune. Sì, un lavoro che non è fatto quindi per arricchirsi, ma proprio per il progresso materiale o spirituale di una comunità. Prego, mi grazie. Allora, articolo 5. 5 della nostra Costituzione. Vado sempre a memoria. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi. A memoria, mi grazie. La memoria. Locale, perché, allora, la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Sbaglio? No. Qui la Costituzione ci dice quindi che la Repubblica è una ed indivisibile, però riconosce all'interno della Repubblica le autonomie, e quindi anche qui, anche in questo articolo e poi anche nel successivo articolo 6, la tutela delle differenze. Sì, questo articolo implicitamente ci vuol dire che la Padania non esiste. Articolo 6, grazie. Articolo 6, allora, la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Quindi, tipo quelli che hanno la zeppola, sì. la R-moscia. Allora, qui c'è la difesa delle minoranze linguistiche, quindi qui ritorna il concetto anche, no, di pluralismo e di difesa delle differenze, la tutela delle differenze, delle diversità. Sempre perché le differenze ci sono, ma appunto vanno tutelate se sono minoranze. Ma poi chiaramente anche nell'articolo 5, quando c'è il riconoscimento, no, delle autonomie, è perché si prende atto che lungo il territorio, nel territorio ci sono differenze, culture diverse. Sì, e esigenze diverse anche. E adesso mandiamo un altro contributo. Vai col contributo. Perché stiamo perdendo. Stiamo perdendo il diritto di costruirci un destino. Stiamo perdendo la libertà per permettere a degli stranieri di venire qui e spellare il nostro paese. E non è una cosa che sta succedendo a miglia da noi, non è che sta capitando in posti dei quali non possiamo occuparci. Sta capitando proprio qui, nel nostro quartiere, nel palazzo che è di fronte a noi. Archie Miller aveva un supermercato da quando eravamo bambini. Dave lavorava lì, Mike lavorava lì. È fallito e l'ha preso un muso giallo coreano che ha licenziato i ragazzi e ha fatto i soldi perché ha assunto 40 fottuti immigrati bastardi. Vedo questa merda andare avanti e non vedo nessuno fare qualcosa per fermarla, e questo mi fa incazzare di brutto! Perciò guardatevi intorno. Non è il nostro quartiere. È un campo di battaglia. Stanotte siamo su un campo di battaglia. Prendete una decisione. Ce ne staremo da parte, zitti, zitti. Fermi a guardare la nostra patria che viene stuprata? No! No, cazzo! Vogliamo unire le nostre forze e fare qualcosa? Sì, facciamogli vedere chi siamo. Eccoci di nuovo. Eccoci qui. Possiamo leggere l'articolo 7, mi grazie, pronti? Sì, mi ero addormentato. Allora, lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Allora, qui all'articolo 7 la Costituzione, i costituenti affrontano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. In questo articolo si prende atto dei patti lateranensi sottoscritti nel 1929 tra Mussolini e la Santa Sede, e con i quali venivano, diciamo, regolati alcuni rapporti e messi un po' così a calmerare un po' dei conflitti. Conflitti che risalgono a secoli e secoli prima, d'altra parte. E niente, il risultato è quello che purtroppo oggi abbiamo, nel senso, non è più religione di Stato, ma tutto sommato è come se lo fosse. Nell'84 infatti i patti lateranensi sono stati rivisti e non c'è più il principio della religione di Stato, lo Stato è laico, non è uno Stato confessionistico. In più, in questo articolo 7 c'è reciproco riconoscimento di sovranità e di indipendenza. Ognuno ovviamente per i propri compiti, così dovrebbe essere se... Nel proprio ambito, sì. Così dovrebbe essere... ma forse così non è, non tutto rimane in chiesa, diciamo, ecco. L'articolo 8 invece riguarda i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose. Sì, lo devo leggere? Che lo dice? Leggere? Non lo so, mi grazie a questo punto no, legga nel senso a memoria, se dobbiamo aspettare la memoria. Tutte le confessioni, che mi fa dire? Allora, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ripeto. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Ha bisogno di leggerlo un po' di volte, vero? Ho detto ripeto, non rileggo. Allora, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti, come lo Stato, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Allora qui sostanzialmente la Costituzione ci dice che le confessioni acattoliche e quindi c'è la libertà di culto, godono di una posizione, no, di autonomia, di indipendenza, si possono autodeterminare, auto-organizzare. Avere uno statuto e se vogliono costruire una moschea. Ecco. Che faccio? Leggo? Legga, legga. Allora. Altrettanto importante. Recito sempre a memoria. Prego. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ecco, questo anche A me questo non mi sembra, però. Infatti, mi grazie. Facciamo delle osservazioni al riguardo. Allora. Qui si parla sempre di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca. La cultura sono il presepe il presepe è assolutamente il crocifisso pure qui, che fa parte della nostra cultura. E poi lei la interpreta così restrittivamente. La ricerca scientifica, che ne so, non lo so, adesso scientifica tecnica già mi vedo più, ma E la tutela del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Vuol dire che se c'è un sacchetto di immondezza lo puoi buttare dove ti pare. Cioè, quindi lei una scarpata, lo butti tanto non si vede. Lei lo legge così. Il paesaggio perché lo vedi. Quello che sta sotto la scarpata non lo vedi, quindi lo puoi buttare, capito? Quindi, ok, salone del mobile sotto casa. Sì, queste cose qua che vediamo tutti i giorni e purtroppo fanno parte delle inciviltà. E l'inciviltà è anche non aver compreso però quali sono i nostri diritti e quali sono i nostri doveri nei confronti della società. Sì, anche chiaramente la nostra responsabilità, la Costituzione parla di questo, parla sempre di collaborazione, di cooperazione. Eh sì, però in un mondo di sovranisti, diciamo, dove ognuno è sovrano a casa sua, ma finiremo a spararci secondo me da un balcone all'altro. Allora, niente, io direi a questo punto di mandare un contributo? Vai. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Bravo dottore, complimenti. Bravo dottore, bravo. Che ci voleva questo? Ma non applauditemi, io non so. Con modestia, al lavoro. Eccoci di nuovo ancora. Eccoci qua, quindi riprendiamo e gli ultimi tre articoli. Articolo 10, Migras. Sì. Allora, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Le condizioni giuridiche dello straniero è regolato dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'articolo 10 della Costituzione, anche qui, molto chiaro. Sì, molto chiaro, diciamo molto di attualità, anche perché se non ci fosse il coronavirus il primo problema degli italiani sarebbe comunque l'immigrazione, e almeno così ce la propongono forze politiche che biecamente sfruttano, diciamo, consenso popolare facilmente ottenuto attraverso l'infusione di paure. E qui questo articolo, no, ci dice noi non è che siamo soli nel mondo. No, c'è una comunità internazionale, ci sono dei trattati generalmente riconosciuti da tutti i paesi più civili, almeno, che si ritengono tali, perché poi la civiltà è un qualcosa di effettivamente difficile da descrivere. Però, insomma, almeno una volta che uno ha aderito, che si rispettino queste norme, e soprattutto vorrei ricordare appunto come in nessuna parte dell'articolo si parli mai di guerra. Quindi quando sentite questi arruffapopolo che dicono che non scappano da nessuna guerra questi immigrati che vengono da noi, questo non c'entra nulla con il diritto d'asilo. Questo è, infatti, qui si parla di diritto d'asilo e quindi di esercizio di libertà democratiche che altrove non sono permesse, così come invece le permette la nostra Costituzione. Andiamo con l'articolo 11. Allora, articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, all'eliminazione di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Ecco, questo è l'articolo dove si parla di guerra. E qui la Costituzione stabilisce che l'Italia ripudia la guerra come appunto uno strumento di risoluzione dei conflitti o come uno strumento di aggressione. Insomma, vabbè, diciamo che la Costituzione ancora deve essere applicata tutta. Ecco. L'articolo 12. L'articolo 12 è quello che a me piace di più, perché io sono un romantico, quindi non... Sì, lo immaginavo, lo immaginavo. Mi fanno venire le lacrime quando... Si è commosso. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Però, secondo me, i colori li potete anche mescolare. Le bande, pure orizzontali, è la stessa cosa e anche di dimensioni diverse. Allora, l'articolo 12 sì, è un articolo dedicato alla bandiera, dove il tricolore per la Costituzione è proprio il simbolo dei diritti e dei doveri, di quello di cui si è parlato. Sì, diciamo che non è obiettivamente uno degli articoli più utili della Costituzione, però diciamo sì, il discorso della forza, dei simboli, e spesso effettivamente nella storia bisogna dire che questo ha funzionato. E niente, direi che con questo siamo articolo... arrivati. Mi grazie, siamo arrivati. Cioè, è finita la lezione? Ma lei che andare? Fa? Si addormenta ogni 3x2? No, vabbè, sto a casa mia, non è che stavo... Comunque, vabbè, quindi è finita la lezione, me ne posso andare? Sì, noi la ringraziamo di aver prestato la sua voce. Grazie mille. Grazie a voi di avermi chiamato, anche perché mi sentivo un po' solo. Ecco, vabbè, ecco. Semmai ci sentiamo, va bene? Certo, ciao, certo. Ciao. Ok, bene. Adesso? E adesso abbiamo un ultimo collegamento telefonico. C'è un nostro amico. Marco, ci sei? Sei Marco? Sì, ci sono. Ciao. Ok, ciao. A tutti. Ciao. Che ne pensi? Vedete? Che ne pensi di questa prima lezione? Guarda, io ho dormito per buona parte, insomma, degli articoli. Uno perché già li conoscevo, due perché è una Costituzione diciamo che alla fine ritengo abbastanza superata, poi diciamo no, da quelli che sono meccanismi economici e governativi, quindi va bene ripeterla, va bene tutto, però insomma diciamo al di là poi delle critiche che si possono apportare alla Costituzione. Sì, sì, sì, sì, sì. I diritti vengono in qualche modo, diciamo, sono molto elastici e vengono, diciamo, compressi, stretti e tirati, insomma, a seconda del sistema in cui viviamo, e quello in cui viviamo attualmente, insomma, non è un grandissimo sistema, a mio modo di vedere. No, no, infatti là no, ci stanno i principi fondamentali, quelli là, voglio dire, già come sono, insomma, invece l'applicazione. Certo, cioè, no, tra l'altro diciamo c'è cioè, tanta noia, no, in questi giorni da parte di tutti, per chi sta a casa, per chi non ci vorrebbe stare, per chi non che sia meglio andare a lavoro, però insomma avendo tempo libero e sprecandolo, diciamo, stando diciamo chiusi dentro casa, insomma non è proprio il massimo, e quindi diciamo uno si perde anche un po' a riflettere, no? Quindi quando parlavate diciamo dei vari diritti, poi alla fine è importante anche capire diciamo quale gerarchia c'è all'interno di questi, no? Avete parlato di libertà di movimento, e quella può essere compressa o limitata diciamo per ragioni sanitarie, è proprio il caso in cui siamo. E poi si dice che è una repubblica fondata sul lavoro, la Repubblica Italiana, ma fino a che punto diciamo il lavoro è un diritto e a che punto diciamo diventa un dovere e di più diciamo un'imposizione che va anche contro un altro diritto costituzionale, che è quello che dicevate, che è quel diritto alla salute. E questo insomma è argomento di tutti i giorni di cui si sta parlando, insomma, dai rider e il personale infermieristico, il personale medico e sanitario, insomma, e chi è costretto, chi fa parte dell'apparato produttivo ed è costretto comunque diciamo ad andare al lavoro a scapito del diritto alla salute. Quindi voglio dire, è probabilmente diciamo tutto l'impianto capitalistico attuale che forse diciamo crea delle distorsioni a cui probabilmente la nostra Costituzione non è assolutamente in grado di porre un argine, perché ci troviamo in una situazione in cui diciamo da che parte la tiri e la tiri, diciamo, in un sistema basato sulla produzione, e purtroppo diciamo non ci si può fermare neanche laddove è a rischio la salute, ma questo è evidente, almeno non ci si può mai fermare completamente. Adesso diciamo con questa storia del post e anche diciamo emergenza coronavirus, insomma, andremo a vedere quali politiche poi saranno intraprese. Adesso siamo in emergenza, siamo in una situazione particolare, ma secondo me diciamo ci saranno da scontare poi diciamo da un punto di vista proprio economico, certo, e delle pene pesanti insomma anche dopo, per un bel po' di tempo purtroppo. Sì, non so, io spero in realtà che qualcosa possa cambiare, ma ci sono situazioni di sfruttamento che non credo che il post coronavirus riuscirà a sanare, insomma, questo no. Ma è difficile, insomma, la gente si ammassa per ordinare insomma su online diciamo ciò che oggi non riesce a comprare andando materialmente nei negozi, diciamo, con ovviamente diciamo rischi per chi va avanti e indietro, insomma, per la città. D'altra parte persone che vanno avanti e indietro con contratti precari, se si fermano diciamo a loro volta non sanno di che mangiare, quindi certo, è veramente una situazione è proprio diciamo l'impianto sistemico in generale, insomma, che secondo me, secondo tanti, insomma, non secondo me, fa acqua da tutte le parti. La Costituzione che può fare di fronte a questo, mi sembra niente, insomma, diciamo il cambiamento di cui si auspica presto diciamo un nuovo corso, al momento è lontano, insomma non mi sembra che da domani insomma si finisce, però questa crisi diciamo questa emergenza ha portato ancora di più, no, all'evidenza diciamo il fatto che quando diciamo ci si butta esclusivamente diciamo sulla produzione, poi diciamo a farne la spesa e l'uomo anche diciamo da un punto di vista proprio fisico di salute, e quando questa emergenza diciamo è sentita a livello diciamo generale, probabilmente ci se ne accorge ancora di più. E gli esempi poi diciamo sono sotto gli occhi di tutti quotidianamente, insomma, quando si parla di sicurezza al lavoro e salute nei luoghi di lavoro e salute e sicurezza diciamo all'interno delle carceri, insomma sono tantissimi gli esempi. In questo caso diciamo siamo tutti coinvolti, e quindi è probabilmente diciamo posta ancora di più all'attenzione quello che molti vedono e subiscono quotidianamente sulla propria pelle. Eh sì, speriamo sia un'occasione, va, mettiamola così, per far aprire gli occhi a molti. Ma comunque sì, sono falle evidenti. Chi lo sa, vediamo un secondo, non so neanche diciamo in che misura diciamo si potrebbe, no, altrimenti arginare, però voglio dire diciamo che la salute sia diciamo venga prima di tutte, che senza diciamo ovviamente diciamo il lavoro che consente diciamo di guadagnare non si possa essere neanche salute, insomma sono tutti concetti diciamo abbastanza semplici che poi vanno tra di loro diciamo montati insieme per capirne le contraddizioni e le eventuali soluzioni. E questo diciamo ripeto sistema di produzione capitalistico, di turbocapitalismo, chiamatelo insomma come vi pare, e diciamo si vede come non a un certo punto ci si impalli in qualche modo, e quello che sta succedendo in questi giorni è proprio questo, diciamo d'altra parte c'è questa schizofrenia fra il fermarsi e il non fermarsi, perché come fai in qualche modo diciamo certo un danno lo fai insomma, sì. chiaramente queste piccole riflessioni noiose direi diciamo da chi si sta annoiando. Beh, sperando insomma pensando di farmi un cane, è l'unica riflessione intelligente probabilmente di questi giorni. Ti prestiamo Olivia, sì, c'è un mercato nero diciamo sotto bosco di cani prestati e rubati, insomma che escono 40 volte al giorno, cani improvvisati, sì. Frutta più della droga ormai penso diciamo spacciare i cani. Eh sì va bene Marco, grazie mille. Un saluto, grazie a voi e buon proseguimento. Ciao, un saluto a tutti e a tutti come sempre. Ciao, grazie. Ciao. Niente. Ringraziamo Radio Onda Rossa per l'iniziativa. Noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo con nel nostro piccolo abbiamo letto insieme i principi fondamentali della Costituzione. Vi salutiamo. Vi vogliamo bene. Ciao a tutte e a tutti. Ciao. Mandiamo forse un ultimo contributo, magari. Forse un contributo.